Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Luce e Tenebre. Io sono la Bisa e qui con me c'è Eleonora. Benissimo, allora oggi di cosa parliamo, Ele? Allora, oggi parliamo di un'inchiesta molto importante che si sta svolgendo in questi giorni, appena iniziata. Si chiama A Emilia ed è sulle mafie in Emilia-Romagna. Ora, che ci fossero le mafie in Emilia penso lo sapessimo già. Alcuni sì, alcuni no. Alcuni facevano finta di non saperlo, diciamo. Molti, soprattutto a livello istituzionale, chiudevano gli occhi e le orecchie. Però attualmente anche a livello giudiziario, diciamo, si sta accertando che sì, la mafia in Emilia c'è e anche parecchio. Cos'è questa inchiesta? È un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale di Bologna, in particolar modo dal procuratore capo Alfonso, che ha coinvolto però anche procure e soprattutto carabinieri, polizia di Modena e Reggio Emilia e Parma, la mia città. Nell'ambito di questa inchiesta ci sono stati ben 117 arresti, quindi diciamo che la mafia c'è parecchio, quindi abbiamo tutta una serie di indagati in custodia cautelare per associazione mafiosa e alcuni che invece sono da considerarsi come concorrenti esterni. Sì, va detto che comunque per ora Bologna non è stata, diciamo, né sotto inchiesta come la città principale rispetto alla regione Emilia, però di fatto comunque ci sono dei collegamenti, anche se le sedi, ecco, per così dire, mafiose sono in altre città, soprattutto a Reggio Emilia, però sono evidenti chiaramente i contatti anche con Bologna, essendo il capoluogo. Allora, la cosca mafiosa che è stata coinvolta in particolar modo è la cosca Grande Aracri, che è originaria di Cutro, ma si è stabilita in Emilia da parecchio tempo, sono almeno 30 anni che ha fatto una sede distaccata, diciamo, a Reggio Emilia e nei comuni limitrofi come quello di Brescello. In questo ambito quindi gli arrestati sono di diverso tipo. Ci sono i capi mafia, che sono appunto i membri della cosca Grande Aracri, che si è scoperto, almeno non si hanno molte prove del fatto che si siano divisi le zone, quindi ci fosse un boss responsabile di Reggio Emilia, un boss responsabile di Brescello, uno di Parma, per cui sono riusciti a mappare il territorio in modo da poterlo controllare. Però un mafioso non può agire da solo, soprattutto al nord, non perché siamo più bravi, ma perché potrebbe avere più difficoltà. E infatti hanno avuto grandi aiuti dall'imprenditoria locale. Per Bianchini, ricordiamo l'impresa Bianchini, che era stata esclusa dalla wet list, quindi era già un'impresa tenuta sotto osservazione, che però nonostante questo ha tenuto il controllo dell'appalto dopo il terremoto, dopo il sisma. Quindi ci sono una decina di imprenditori emiliani, esclusivamente emiliani, indagati, per cui vediamo che non sono soltanto i calabresi che possono essere mafiosi, perché questi imprenditori sono considerati come veri e propri affiliati, quindi come partecipi al reato di associazione a delinquere a stampo mafioso e non come semplici collaboratori esterni. Non ci mancano però anche collaboratori esterni che sono nell'ambito politico, perché chiaramente senza le autorizzazioni necessarie da parte dei comuni anche un imprenditore e un mafioso insieme non fanno niente. A livello di personalità che possiamo ricordare, troviamo due uomini del centrodestra regionale. Uno è Giuseppe Pagliani, che è un avvocato e consigliere comunale di Reggio Emilia di Forza Italia, e un altro è un mio compaesano, di cui quindi grande orgoglio campanilista, Giovanni Bernini, ex assessore a Parma. A proposito di campanilismo, io interromperei questa prima parte della puntata mandando una canzone di un gruppo di Arezzo che si chiama Ombre Lobo, l'uomo lupo, che si chiama Chiodo, e sono appunto una band emergente che spero possa diventare importante e portare Arezzo altrove, e gli faccio i miei più cari auguri, in bocca al lupo, questo è Chiodo per voi. Fermo, immobile, da troppo tempo ormai. L'anima immobile come il pensiero fisso. Ormai inchiodato, ossessionato, schiavo della realtà. Sul legno Eccoci di nuovo in studio per continuare il discorso sull'inchiesta. Abbiamo fatto un po' un'analisi di chi sono gli indagati. Tra di questi, oltre agli altri bei soggetti, troviamo anche un giornalista, Marco Gibertini, conosciuto sulle TV locali emiliane, che aveva ospitato anche alcuni dei politici indagati, quindi si vede che si conoscevano bene. Quindi perché è rilevante la presenza di un giornalista in questo ambito? La cosa che ha colpito me è stata, al di là che comunque di un giornalista ti aspetti sempre, forse più di un politico, una certa correttezza, cioè che assuma un atteggiamento più pulito per la ricerca di verità, mentre comunque la politica è già più meschina. E poi perché io sinceramente l'Emilia aveva un altro grande esempio di giornalista all'opposto, che è quello di Giovanni Tizian, che ne approfitto per ricordare che il processo Black Monkey ancora c'è e ci sono le prossime udienze, saranno il 18 e il 25 febbraio alle 9:30. Invito la comunità, ai cittadini, a partecipare, perché questo è il tipo di giornalismo e il tipo di persona che dobbiamo sostenere. E poi peculiare è stata che il 3 c'è stato il processo a Rino Giacolone. Rino Giacolone è il caso opposto a quello che insomma siamo abituati a vedere. Di solito ci sono i mafiosi sotto processo, invece in questo caso è un giornalista che di Articolo 21, che si è trovato appunto a essere accusato di diffamazione perché aveva accostato alla figura di Don Mariano non solo il fatto che fosse mafioso, quindi nei suoi articoli riportava i suoi collegamenti con la mafia, ma perché l'aveva definito appunto una persona, passatemi il termine, ma merdosa, quindi riprendendo la famosa frase di Peppino Impastato, la mafia è una montagna di merda. L'offesa non è derivata, ed è questa la cosa pseudo, cioè paradossale, non è derivata di una falsa accusa di mafia, ma il fatto che la mafia fosse accostata alla merda, detta proprio così. Ma infatti, cioè, mi sembrano offese brutte, insomma, da elementari, non facciamole, voglio dire, cioè, poco carino nei loro confronti, no? E quindi, cioè, è importante, secondo me, mantenere comunque una certa prospettiva riguardo a questa cosa, cioè il fatto che l'essere mafioso non sta diventando qualcosa di offensivo, qualcosa di rinnegato, da rinnegare, scusate. E quindi c'è proprio una visione culturale, e soprattutto chiaramente da parte dei mafiosi, che se la credono, che se sono onorati di fare parte di qualcosa che è antistatale. Io penso che, al di là di Rino, in questa circostanza in generale è vero, e tutti dobbiamo considerare la mafia una montagna di merda e ripeterlo senza paura, senza... perché questo è, ed è giusto, ed è molto bello un articolo sul Fatto Quotidiano riguardo a questa cosa, se avete occasione di leggerlo lo trovate tranquillamente. E ricordiamoci che anche in Emilia c'è chi ha detto che con la mafia bisogna conviverci, quindi forse facciamo un ragionamento su questo e facendolo ci spieghiamo anche sul perché poi partano inchieste. No, ma infatti la professoressa Stefania Pellegrini qui dell'Università di Bologna, che tiene il corso Mafia e Antimafia e poi il Master Pio La Torre, ho letto appunto una sua intervista che le chiedevano dopo l'inchiesta e lei ha detto è sempre così, cioè c'era questa immagine dell'Emilia in cui le mafie non c'erano, poi la gente corre poi a ripari, cioè come se l'effetto sorpresa, cosa che assolutamente non è così, cioè la sorpresa del momento in cui te insomma non sei attento, fai finto di non vedere, e quindi poi dopo c'è l'atteggiamento allarmista. Anche alla stessa professoressa, quando magari parlava di mafia, le veniva detto che stava facendo dell'allarmismo gratuito e senza fondamenti. Sì, perché da noi chiaramente si vede meno. Tra l'altro, pensando sempre al giornalismo, magari anche all'impegno dal basso, tu hai sentito di qualche gruppo di ragazzi che si sia occupato di temi mafiosi in Emilia prima delle inchieste? Sì, che è Cortocircuito, che è un collettivo di Reggio Emilia, composto da ragazzi universitari come potremmo essere noi del presidio appunto qui di Bologna, e sono quelli che hanno fatto scoppiare il caso del sindaco di Brescello, perché firmato mentre passeggiava con Francesco Grande Aracri, mafioso. Sì, uno dei boss della cosca grande Aracri di Cutro, che appunto si collega a quella che è l'inchiesta di cui parlavamo prima, attuale dell'Emilia. Quindi è un esempio importante, perché spesso si tende a delegare tutto, si tende a delegare alla polizia, ai magistrati, e invece la lotta contro la mafia parte dal basso e parte da tutti, e questo appunto è un esempio molto importante, non solo perché sono ragazzi, ma è importante perché sono riusciti a documentare, quindi a denunciare delle realtà che erano probabilmente sotto gli occhi di tutti e che la gente appunto non ha voluto vedere, sottolineando il distacco e la paura che l'omertà soprattutto che la maggior parte delle persone hanno nei confronti della mafia. Va bene, ma ora allentiamo un attimo la tensione, lanciamo la canzone Boys Latin di Panda Bear. Siamo ancora noi, siamo in chiusura di questa puntata. Volevamo chiuderla con il discorso del nostro nuovo Presidente della Repubblica, che ha appunto tenuto insomma quando ha giurato, con i punti più importanti. Abbiamo parlato di mafia e quindi adesso Lele ci leggerà la parte del discorso sulla mafia. Esatto. Allora Mattarella ci dice: la lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile, divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. È allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente immuni. Un cancro pervasivo che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti. Dobbiamo incoraggiare l'azione determinata da magistrature e delle forze dell'ordine, che spesso a rischio della vita si battono per contrastare la criminalità organizzata. Bello, un bel discorso è stato. Sì, anche molto applaudito in Parlamento, anche se poi agli applausi sembra non seguano i fatti, però... Però continueremo a sperarci, che ci piaccia o meno, questo è il nostro nuovo presidente, e vediamo. Insomma, comunque l'in bocca al lupo non si nega nessuno e magari ci stupirà. Un po' di speranza, via. Noi saremo ingenui, ma continuiamo a sperare. Ora vi lasciamo una canzone che vi spieghiamo dopo. Dance with dark hearts and pink stars, nicotine and love, kick it to the top, I'm river run apart, I drive it to the stars and fall from above, you feel when I sing, cause I bring love. Tornati in studio, siamo ancora noi. È l'ultima volta, promesso, poi adesso andiamo via. La smettiamo. E la canzone che avete appena sentito è Nicotine Love di Tricky. Perché vi ho fatto ascoltare questa canzone? Perché stasera all'Estragon di Bologna c'è il concerto alle un po' tardi, quindi per i nonni non va bene, alle 11:30. Siete ancora in tempo a prendere il biglietto, lo pagherete un po' di più perché non c'è più la prevendita, però affari vostri. E Tricky è un cantante di Bristol che fa un genere che è stato denominato trip hop, perché ci piacciono le etichette complicate. E niente, Bisa, che altro c'è da fare che in questi cosa giorni? C'è? Allora, si sta parlando di musica, un sacco di album sono usciti con questo 2005, personalmente 2005 Pisa sei rimasta indietro. Va bene, non ci preoccupiamo. Scusate, sono stati giorni veramente difficili di reclusione, questi esami, e poi sono, insomma, sono tipo vintage. Giustificate. Esatto, folle completamente. Comunque stavo dicendo che appunto in questi giorni di delirio mi sono appassionata al nuovo album di Paletti, grande Paletti, Qui e Ora, che consiglio a tutti di ascoltare perché veramente ti salva giorni di noia, questo grigiore di Bologna. E ti aiuta con gli esami, immagino. Poi Ele, non so come sei messa a tema, ti ricordo che siamo vicini a San Valentino, se non siete impegnati in cene romantiche o tentativi di salvare qualche relazione con questa occasione fittizia. Sì, che bella festa. Il comunale di Bologna, il teatro regala insomma, mette in scena, regala proprio per niente. Però se qualcuno di voi è ricco economicamente, se lo può permettere, c'è Madama Butterfly, l'opera. Andiamo sulle cose complicate. Sì, sì, facciamo i radical chic colti. Benissimo, signorotti, bravi. E boh, deve essere comunque molto molto bello, speriamo, ecco. E va bene, adesso penso che abbiate abbastanza cose da fare, quindi vi possiamo salutare. Non ci sentirete più, se promesso, siete... E scusate tutte questa puntata difficilissima. È stata molto lunga. È stata molto lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Va bene, Bisa, buttaci l'ultima canzone. Sì, vi salutiamo appunto con Paletti, così mi fanno contenta. La canzone è Qui e Ora. E alla prossima, signori, grazie a tutti e della vostra pazienza soprattutto. Ciao a tutti. Cambiar.